L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 6 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, che è il portale del network Euronet Plus, appunto, al quale apparteniamo, o ancora chiocciola Euronet Plus R24 per trovarci sui social, Facebook e Twitter, lì anche con il mio account personale chiocciola Federico Taddia, spazi digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, tante voci per raccontare l'altra Europa, quella dell'attualità politica ed economica, viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Vi ricordo intanto che sul nostro sito radio24.it è attivo il Big Crunch 2006, questo sondaggio popolare, la domanda che tutti gli stati europei si stanno ponendo attraverso questo sondaggio è: perché l'Europa è diventata così impopolare? Un sondaggio in collaborazione con Euronet Plus per far sentire anche la voce dei cittadini al cuore europeo. Fino al 27 aprile c'è la possibilità di dare la propria opinione, di mettere appunto il proprio voto. Vi ricordo radio24.it, cercate la sezione Big Crunch 2016 e da lì potrete votare. Si parte! Was a blood red circle on the cold dark ground, the rain is falling down. Church doors thrown open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruins, my city of ruins. Now the sweet bells of mercy. Si parte in questa puntata, si parte da Palmira, il complesso architettonico, la cittadina che le forze di Assad hanno rioccupato dopo la furia dell'ISIS. E che cos'è Palmira oggi? Quali sono le prospettive dopo l'occupazione, dopo la distruzione? Sono domande che sono rimbalzate sui quotidiani in questi giorni e vogliamo anche noi affrontare l'argomento. Lo facciamo con Paolo Mattie, archeologo e professore emerito dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, fa parte dell'associazione Priorità e Cultura, che organizza ogni anno un premio internazionale patrocinato dal Consiglio d'Europa dedicato proprio alla salvezza del patrimonio culturale, autore di una bella intervista su Repubblica mercoledì 30 marzo. Buongiorno professore, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo da Palmira. Che cos'è oggi Palmira, dalle notizie che si hanno? Palmira è senz'altro la città martire del patrimonio culturale mondiale. Le distruzioni che sono verificate nei mesi scorsi sono oggettivamente gravissime. Dei gioielli dell'architettura imperiale romana, dei gioielli delle necropoli più affascinanti in una città magica nel deserto di Siria, sono perdite estremamente gravi non solo per la Siria ma per tutto il patrimonio mondiale. Si pone oggi in maniera urgente il problema di che fare, ricostruire, restituire le rovine nel loro stato passato, ridare a questa città il fascino che ha sempre avuto da più di due secoli, non solo per il mondo occidentale ma per il mondo di tutto il pianeta. Mm-hmm. Le domande sono ovviamente quelle che già lei ha toccato, cioè restaurare, ripristinare, ricostruire, preservare quello che è rimasto. C'è una direzione privilegiata dagli archeologi o comunque da chi si occupa di salvaguardia del patrimonio culturale? Cioè, l'importante è rivivere l'esperienza, quindi abbiamo sentito parlare in questi giorni di stampante 3D che potrebbero ricostruire pezzi distrutti, o è importante far vivere al visitatore quello che è rimasto di originale. Vorrei dire come premessa che quando si tratta di restauri, di ripristini, di ricostruzioni, le polemiche sono all'ordine del giorno, perché si tratta di procedure, di metodi, di criteri generali, di principi, e su questo il dibattito è sempre stato, particolarmente in Italia, ma anche nel mondo, molto acceso. Io credo tuttavia che ci siano delle linee generali da seguire. Il primo punto è che si deve assolutamente bandire ed evitare nell'immediato futuro e poi più tardi ogni tipo di speculazioni. Queste cose si sono viste dopo la guerra civile durata 14 anni nel Libano, speculazioni diciamo selvagge per la ricostruzione di Beirut. Un secondo punto è che si deve seguire senz'altro la sovranità del paese che oggi naturalmente controlla Palmira, la Repubblica Araba Siriana, e si deve seguire dei principi che sono quelli generali dell'UNESCO, su cui tutti i paesi del mondo concordano. Per arrivare a cose più semplici, vorrei dire che restauri di tipo tradizionale sono relativamente semplici, si tratta di ripristinare una parte di colonnate, ci sono i blocchi per terra, sì. Si vede ormai dalla documentazione già disponibile ad opera della Direzione Generale delle Antichità di Damasco. Il problema è quello della restituzione di ciò che è stato in parte polverizzato e in parte distrutto con esplosioni. Il mio parere personale, che però è largamente condiviso da molti archeologi italiani e internazionali, è che il sistema moderno, appunto, cui lei ha fatto cenno, delle restituzioni 3D con le tecniche moderne è assolutamente da seguire proprio per ripristinare lo stato di rovine di un anno fa. Perché questo è certamente, tra virgolette, un falso, ma è un falso storico, è un falso che noi dobbiamo al popolo siriano, che deve riavere il suo ambiente naturale e culturale, perché la catena umanità, natura e cultura non si può spezzare arbitrariamente per le follie di un preteso califfato. Certo. L'Europa che ruolo può giocare in questa fase? L'Europa può giocare naturalmente un grande ruolo per le conoscenze tecniche, per le conoscenze scientifiche, per le conoscenze nel restauro, e in particolare l'Europa occidentale. Naturalmente tutto è reso complesso dal fatto che non si può non ammettere che la liberazione di Palmira è dovuta essenzialmente all'assistenza militare strategica della Russia, e quindi si dovrà avere, quello che io ho sempre auspicato, una grande collaborazione internazionale, in cui non c'è dubbio che la Russia dovrà avere una posizione cardine. Certo. La scienza e l'arte sono capaci storicamente di andare oltre i confini, speriamo sia così anche questa volta. Grazie davvero al professor Paolo Mattie. www.prioritacultura.it è il sito dell'associazione, se volete avere maggiori informazioni. E buon sabato, grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. SVE in Turchia. Sei alla ricerca di un'esperienza di cooperazione internazionale? E sei interessato alle tematiche sociali e ambientali? L'associazione no profit GEGED, che si occupa di sostegno sociale per adulti e bambini nella città turca di Gaziantep, cerca ragazzi pronti a svolgere un servizio volontario di 2 mesi presso la propria sede. La città presenta un alto tasso di immigrazione e per questo motivo le famiglie e i bambini svantaggiati sono molti. Obiettivo dell'associazione è diffondere tra queste persone tematiche sociali e ambientali, come il riciclaggio, l'uguaglianza di genere e la salute, attraverso workshop, incontri e attività che coinvolgono in prima persona i volontari provenienti da tutto il mondo. Per candidature e iscrizioni cercate Volontariato Internazionale SVE di 2 mesi in Turchia sul sito scambieuropei.info. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta l'altra Europa. Sono i fiati della banda Osiris, con i quali riapriamo l'altra Europa di oggi. Fiati della banda Osiris che compongono questa sigla, che è la sigla di una importante campagna che verrà presentata al Festival Internazionale di Perugia venerdì prossimo. Una campagna social e non solo, di divulgazione scientifica e di racconto della scienza ai giovani, promosso dalla Commissione Europea. Si chiama You Factor e verrà appunto lanciata venerdì 8 con uno spettacolo. Ho l'onore di esserci anch'io su quel palco, dove alcuni dei più bravi, più innovativi ricercatori italiani racconteranno ai ragazzi delle scuole superiori cosa significa abbracciare la scienza oggi. You Factor è il nome di questa campagna e ne parliamo con Evelina Jelenkowska, che è capo del settore stampa e media presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che è una delle anime di questa campagna. Ciao Evelina, ben ritrovata all'Altra Europa. Ciao Federico. Ingegno, passione, talento, You Factor, a tu per tu con la scienza. Perché la Commissione Europea ha scelto di scendere in campo e in questo caso anche su un palco per avvicinare i ragazzi, soprattutto di quarta e quinta superiore, alla scienza? Insieme al Parlamento Europeo, la rappresentanza in Italia, ci siamo posti, diciamo, davanti due dati che sono molto sorprendenti. Da un lato, circa 2 milioni di posti vacanti in Europa che non riusciamo a riempire perché non abbiamo le competenze giuste, ovviamente la disoccupazione che conosciamo, e dall'altro lato delle facoltà scientifiche informatiche che si svuotano. Quindi abbiamo detto, c'è qualcosa che non va, bisogna capire in fondo perché i ragazzi non scelgono la strada delle scienze, della tecnologia, dell'informatica per il loro futuro. E così abbiamo pensato di sensibilizzarli raccontandogli le storie concrete, perché spesso i ragazzi non sanno che cosa possono andare a fare dopo, e quindi o non sanno cosa si fa, pensano che siano lavori molto noiosi, oppure pensano che ci vuole un genio, che loro non si sentono geni e quindi rinunciano da questa carriera. Vogliamo farli riflettere. Infatti le biografie dei ricercatori che porteremo in scena venerdì hanno proprio questa finalità: raccontare storie che poi alla fine possono essere anche la tua storia. Ci sarà Chiara Bartolozzi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ci sarà Marco Micheli, Agenzia Spaziale Europea, Elisa Palazzi dell'Istituto per le Scienze Atmosferiche e del Clima, Chiara Petrioli dell'Università La Sapienza di Roma e Antonella Viola, Università di Padova. Mondi diversi, discipline diverse, però appunto per raccontare tutti insieme quella che è la passione e anche il sacrificio che c'è dietro alla ricerca e dietro alla scienza. Evelina, poi cosa succederà nei prossimi mesi? Beh, diciamo che la campagna vorrebbe coinvolgere il massimo di persone che condividono il messaggio, quindi vogliamo creare una specie di piattaforma fissa tra i ragazzi da un lato e dall'altro lato quello che è il mondo scientifico. Quindi vogliamo coinvolgere massimo dei partner possibili, le università, gli istituti, i ricercatori stessi, che chiederemo di raccontare ai ragazzi, noi predisporremo vari strumenti, di raccontare a loro quello che fanno e quello che li ha affascinato, come ci sono arrivati, anche perché magari i ragazzi all'età di 16, 17, 18, 19 non si vedono nel futuro così chiaramente. Quindi faremo anche vari eventi, che sono, alcuni sono già ben precisati. Faremo gli incontri con le scuole, dove cercheremo di portare almeno uno dei nostri testimonial, però faremo anche vari giochi su Facebook, inventeremo un concorso, già faccio un po' anteprima, faremo un concorso foto e video per i ragazzi che poi verrà premiato a Gifoni, quindi sto un po' svelando magari anche troppo, ma la campagna ha diciamo l'ambizione di essere lì almeno per 6 mesi, e poi noi speriamo che, se funziona, magari poi va avanti, anche se è un mondo che poi decollerà. Certo. L'hashtag You Factor, le pagine Facebook della Commissione e del Parlamento Europeo sono poi i punti di riferimento. Ci sarà un sito dedicato, ma dal lancio in poi avremo poi modo di accompagnare mese per mese tutta la campagna. Ciao Evelina, tu eri brava in scienza a scuola? Ma a me piaceva tanto, infatti un po' all'ultimo ho rinunciato dal studiare matematica, chissà dove sarei oggi, forse mi mancava una campagna come questa per capire che cosa si poteva fare dopo le scienze. Ci vediamo a Perugia, grazie, ciao, buon sabato. Ciao, buon sabato. Europost-it. Capolavori in mostra all'Accademia dei Lincei. A tutti gli appassionati di storia, di libri e di inchiostro. Inaugura a Roma, nella Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, la mostra I libri che hanno fatto l'Europa. 180 libri manoscritti tra latini, romanzi, greci, arabi ed ebraici in un'esplorazione della storia dell'uomo moderno che va dalla riforma carolingia fino alla rivoluzione gutenbergiana. Scopo della mostra è far conoscere il patrimonio culturale delle biblioteche di Roma ai giovani e al più ampio pubblico, presentando i libri che attraverso i secoli hanno reso gli europei ciò che oggi sono. L'ingresso alla mostra è gratuito, l'organizzazione è a cura dell'Accademia Nazionale dei Lincei e del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della Sapienza. Per informazioni e orari visitate il sito lincei.it. Wildest dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So questo rapporto diretto, essenziale, vitale tra Europa e scienza, tante volte ne abbiamo parlato qui all'Altra Europa, e anche ora lo facciamo non solo con la campagna lanciata dalla rappresentanza della Commissione Europea insieme al Parlamento Europeo, ma tornando a raccontarvi una storia. Stiamo parlando di un finanziamento dell'ERC, del Consiglio Europeo della Ricerca, che vede ancora una volta un italiano protagonista. Diamo il benvenuto ad Andrea Longhin, ricercatore dei laboratori nazionali di Frascati, che è appunto a capo di un progetto ERC finanziato con 2 milioni di euro per una durata di 5 anni, progetto che si chiama New Beat, se non erro. Ciao Andrea. Ciao Federico, grazie della chiamata. Grazie a te. Allora, sempre difficile, parliamo di neutrini, è vero? Quindi parliamo del infinitamente piccolo e spesso anche infinitamente incomprensibile per noi umani, insomma. Che cos'è questo progetto? Il progetto Enubit è un progetto che mira a fornire ai fisici uno strumento nuovo per fare la fisica dei neutrini. I neutrini in sostanza sono delle particelle abbondantissime e il problema è che interagiscono pochissimo con la materia, quindi è un campo veramente ricco in cui ancora ci sono molte scoperte da fare. Mm-hmm. E l'obiettivo di Enubit è di dare uno strumento nuovo, come dicevo, perché i fasci, cioè le sorgenti di neutrini attuali, sono molto limitanti per i fisici perché sono poco conosciuti in termini di intensità e di composizione. L'idea del mio progetto è di praticamente andare a contare delle particelle che vengono prodotte insieme ai neutrini, e questo permette veramente di sapere con precisione quanti sono i neutrini che abbiamo in partenza. E lo scopo è di capire esattamente quanto queste particelle interagiscono con la materia. Per fare questo è importantissimo sapere quante ne abbiamo inizialmente. Mi sto mettendo nei panni dell'ascoltatore, no? Appunto, qual è lo scopo finale? E uno sente una cifra del genere, 2 milioni di euro, che dice è tanto, è davvero tanto? È tanto e non è tanto, perché questo progetto è molto impegnativo, quindi richiederà degli studi estremamente impegnative, e che quindi bisogna formare un team di persone che ci lavorano a tempo pieno, quindi parte dei soldi andrà a finanziare queste persone. Inoltre costruiremo un apparato sperimentale innovativo che, con cui vogliamo creare qualcosa di materiale che dimostri che questa idea si può fare nella pratica. E questo sarà praticamente il passo iniziale per fare un esperimento su grande scala che coinvolgerà decine e probabilmente centinaia di fisici a livello internazionale. Questo è il nostro scopo. Mm-hmm. Quindi sono necessari, direi. Certo. Andrea, quando è stata la soddisfazione quando hai saputo della vittoria del finanziamento? È stato forse uno dei momenti di maggiore soddisfazione della mia vita, senz'altro a livello professionale, ma anche in senso assoluto, perché vedere la fiducia che viene data a una tua idea e la possibilità concreta che hai di realizzarla è una cosa veramente unica. Mm-hmm. E sono cose insomma rare, per cui è stata una grandissima soddisfazione, allo stesso tempo mista a un senso di responsabilità, perché ovviamente adesso bisognerà mettere a frutto bene queste grosse cifre. www.infn.it, che è il sito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a cui appunto fanno capo i laboratori nazionali di Frascati, dove Andrea Longhin opera, oppure erc.europa.eu, questo è il sito del Consiglio Europeo della Ricerca, per avere maggiori informazioni. Andrea, in bocca al lupo, a te e a tutto il tuo team. Grazie mille, ciao Federico. Ciao, ciao. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua, in diretta, con l'altra Europa. Europost-it. Let's clean up Europe. Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti vengono abbandonate nel mare, nei fiumi e nei boschi. Inquinano, deturpano il paesaggio e minacciano la salute di persone, animali e ambiente. Allo scopo di accrescere la consapevolezza sugli stili di vita sostenibili, torna Let's Clean Up Europe, la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti. Dal 6 all'8 maggio saranno organizzate iniziative di pulizia dei territori, in contemporanea, in tutto il continente. Sono invitati a partecipare istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato, scuole, gruppi di cittadini e imprese. Coloro che volessero proporre e organizzare azioni di raccolta e pulizia straordinaria dei rifiuti in aree verdi, parchi, piazze, spiagge e simili, possono visitare i siti web envi.info e menorifiuti.org e registrarsi online. C'è tempo, fino al 15 aprile. Dove siete quando mi ascoltate per radio? In che modo mi sentite? Mandate una foto che racconti come ascoltate la radio, in che maniera ascoltate la radio. Mandatela a melog@radio24.it e noi la proietteremo in una notte favolosa in cui io deciderò che la radio è morta. Sabato 9 aprile a Milano, all'Unicredit Pavilion, dove parlerò dei miei 33 anni di radio, dalle 19.30 alle 20.30. Siete tutti invitati. L'altra Europa. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, radio24.it, il nostro sito da dove poter scaricare poi il podcast, ma partecipare anche al sondaggio Big Crunch 2016, perché l'Europa è diventata così impopolare, questa è la domanda, per raccogliere opinioni, raccogliere suggestioni. Con l'altra Europa tentiamo di raccontarlo, il cammino di questa Europa, e spesso lo abbiamo fatto narrando gli itinerari europei, queste linee, questi tracciati che mettono insieme stati, nazioni, panorami, culture diverse. E sono, se non erro, 29, però ci sono anche altre tratte meno battute, meno note, meno conosciute, e lì c'è chi sceglie invece di ripristinarle, c'è chi sceglie passo dopo passo di ridare vita, pezzi di storia che nel passato veramente hanno collegato tra di loro nazioni, popoli, possibilità. Stiamo andando in Grecia, stiamo andando all'isola di Creta e ci stiamo andando camminando perché lì, dopo 5 anni di lavoro insieme a dei volontari, è stata ripristinata una via, 500 chilometri che si possono percorrere in 28 giorni da est a ovest. Non è ancora itinerario culturale europeo, ma credo abbia tutte le caratteristiche per poterlo diventare. Con noi c'è la persona che ha riaperto questa via. Diamo il benvenuto a Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini. Ciao Luca. Ciao Federico, un saluto a tutti. Buon sabato. Allora, cosa ti sei inventato? Come mai Creta? Come mai questa storia lunga 5 anni per rimettere in piedi una storia che invece ha secoli dietro di sé? Sì, 5 anni fa avevo un sogno che è stato percorso appunto da me a piedi, attraversare tutta quest'isola bellissima, 500 chilometri in un mese di cammino. L'ho realizzato, però non potevo lasciarlo lì, questo sogno, volevo fosse condiviso. C'era una vecchia via che passava di lì negli anni 80, costruita da un'associazione che si chiamava European Ramblers Association, ma era una via che era un po' morta, non teneva conto che cosa vuole il camminante viandante oggi, non aveva i posti tappa accoglienti, non aveva certe caratteristiche, non era ben segnata. E quindi ho dedicato questi 5 anni a far sì che questo cammino diventasse realizzabile, aperto a tutti. Ce l'ho fatta, credo di aver realizzato un grande sogno, con l'aiuto di tutti gli amici cretesi, ma con gli amici un po' di tutta l'Europa che ama Creta, perché Creta è un luogo pieno di multietnicità, ci sono persone da tutta Europa che hanno deciso di andare a vivere là e ci sono persone che vanno regolarmente a camminare. Ecco, già adesso questo cammino, che è stato lanciato da pochissimo, vede persone in questi giorni dall'Austria, dalla Scozia, ricevo continuamente notizie e sono contentissimo. Tra l'altro tu hai appena pubblicato una guida anche per chi volesse percorrere questo cammino anche da solo, poi con la Compagnia dei Cammini so che organizzate cammini guidati, diciamo, dei percorsi di una settimana per poter in gruppo fare il viaggio, però come si intitola il libro? Il libro si intitola The Cretan Way perché è uscito solo in inglese, quindi la via cretese è per ora una guida in lingua inglese perché appunto per adesso vogliamo raccogliere un po' tutti i paesi d'Europa sull'attenzione a questo percorso. Poi pian piano faremo le altre lingue, francese, tedesco e poi finalmente l'italiano. Cretan Way è questo libro che contiene tutte le mappe, le tracce GPS gratuite per tutti. C'è tra l'altro un sito internet cretanway.eu, sì. Però c'è anche la versione italiana Cammina Creta per chi ci cerca. Perfetto. Luca, ma chi è oggi il viandante, il pellegrino e quanto questo camminare, al di là di Creta, sto pensando anche a tutti gli altri itinerari, può aiutare a creare uno spirito europeo comune? Perché come hai detto tu, su questa strada si incontrano persone di altre nazioni, di altre lingue, ci si conosce, si cammina insieme anche solo in silenzio, però è un modo per entrare in contatto empatico. Certo, sì, il camminatore di oggi non è più quello appunto degli anni 80, sportivo, avventuroso, che cercava appunto l'avventura selvaggia. È una persona che invece lavora di più attraverso il camminare sulla propria interiorità, un percorso per capire se stessi, per rallentare, per superare le proprie paure, per trovare un mondo più accogliente e più ospitale rispetto a quello che ci viene raccontato quotidianamente dalle televisioni, dai media che ci dicono attenzione, pericolo, diffida dell'altro. Ecco, invece il camminatore trova un'altra realtà, trova luoghi accoglienti, persone sorridenti, positività e trova altri camminatori che hanno le stesse voglia di trovare un'alternativa al mondo appunto difficile in cui si trovano nella loro quotidianità. Ecco perché appunto c'è questa possibilità, cioè tutti gli europei che si incontrano in cammino trovano dei valori nuovi comuni basati più sui valori etici che non sugli aspetti economici. camminacreta.wordpress.com, vi ripeto il sito per chi volesse conoscere qualcosa di più su questo nuovo itinerario, oppure www.cammini.eu, che è il sito della Compagnia dei Cammini. Ciao Luca, grazie, buona... grazie a tutti. Mi viene a dirti buona estate, buon cammino, ma tu cammini tutto l'anno, quindi insomma buona quotidianità a piedi. Ciao e grazie. Da Creta ci spostiamo un po' più vicini, torniamo in Italia, torniamo in Piemonte. Perché? Perché c'è stato un riconoscimento, il primo nel nostro paese, un riconoscimento che ha un significato molto particolare. La riserva di biosfera Collina Po è il primo caso di riconoscimento di Urban Mab in Italia, ovvero un comprensorio naturalistico fortemente antropizzato, l'uomo e la natura che si incontrano e possono farlo anche in maniera sostenibile. Per capire il significato di questo riconoscimento abbiamo il piacere di avere all'Altra Europa Ippolito Ostellino, direttore del Parco del Po e Collina Torinese. Buongiorno Ostellino. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Cosa è successo? L'UNESCO si è accorta di che cosa? Si è accorta del fatto che noi lavoravamo da anni per riqualificare il fiume e la collina torinese intorno a Torino, nella zona orientale dell'area metropolitana torinese, e allora noi abbiamo messo in piedi un programma per riconoscere questo territorio come territorio di grande valore ambientale. Torino ha un paesaggio eccezionale, lo diceva il grande architetto Le Corbusier, ha questa cinta delle Alpi favolosa, 8 fiumi che attraversano un grande territorio, una collina stupenda che fa da balcone, piena di boschi, di natura, di fianco a una città. Ecco perché questa idea di provare a proporre un'idea di unione tra uomo, cultura e natura è una visione olistica, circolare delle cose. Solo così lo sviluppo sostenibile si può attuare, non soltanto attraverso i divieti. E questi riconoscimenti hanno il valore di poter far circolare buone pratiche. Cosa c'è di replicabile in altri ambienti simili nella vostra esperienza? Ma intanto è replicabile questa grande esperienza dei parchi regionali. Il nostro è un parco regionale della regione Piemonte, uno dei tanti parchi che sono nati nel 1975 in Piemonte, e in tante realtà italiane i parchi sono un motore di proposta di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Il Monviso in Piemonte, area MAB, il Ticino in Piemonte, area MAB, lungo il Po anche il Delta del Po, nominato proprio lo scorso anno. Allora, è replicabile la possibilità che questi soggetti dialoghino con il territorio. Da noi ci sono 85 comuni che si sono alleati con noi, 85 sindaci, con anche la città di Torino che ha aderito a questo programma. E l'elemento che può essere utile, potrei dire quattro parole chiave: sì. Più forza per i propri progetti, più rete con tutti gli altri, più attenzione ai valori della natura. L'Italia ha grande interesse dal punto di vista dell'innovazione industriale, ma perché non incominciamo a parlare di innovazione ambientale? I paesaggi che abbiamo noi sono unici, abbiamo una biodiversità e una ricchezza materiale e immateriale eccezionale, perché non facciamo diventare questo una grande occasione di sviluppo? E poi il tema dell'attrattività. Cioè questi modelli di integrazione tra uomo e natura diventano più attrattivi per tutti, anche per le risorse delle imprese, dei privati, che possono vedere più interesse nei territori e nella loro responsabilità ambientale e sociale sviluppare delle azioni comuni con il pubblico. Parcopocollina.it, questo è il sito di riferimento appunto per conoscere tutte le attività proposte. Grazie davvero Stellina e complimenti per l'ottimo lavoro. Sì, ne approfitto per ricordare che il 22 di aprile ci sarà il concerto a Superga per la celebrazione e il 21 alla sera un flash mob di tango argentino, che è anche quello patrimonio UNESCO dal 2009, con la proiezione di un film poema circolare sul paesaggio e la danza, due iniziative, 21 e 22, che sono all'interno del Congresso Mondiale dei Paesaggisti, che guarda caso si tiene a Torino quest'anno e che la città di Torino e l'assessore Enzo Lavolta ha portato in questo luogo, un'eccellenza dei paesaggi italiani. Tutto torna. Grazie davvero, buon sabato. Infatti, grazie, arrivederci. Un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. Sei interessato al mondo dell'aviazione e sei alla ricerca di una carriera all'estero? L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea è alla ricerca di un Information Security and Business Continuity Officer che gestisca i sistemi di gestione Information Security e Business Continuity nella sua sede di Colonia, in Germania. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea è stata creata nel 2003 e si occupa di regolamentazione in campo di sicurezza nell'aviazione civile. I candidati dovranno essere cittadini europei in possesso di una laurea triennale. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di candidatura sul sito e-recruitment.easa.europa.eu. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta l'altra Europa. The lights go on, the lights go off. When things don't feel right, mostrare l'invisibile, immaginare luoghi che esistono ma che non appaiono allo sguardo. Questa è la sfida apparentemente impossibile che si possa un fotografo che ha dato vita, che sta dando vita a un progetto bello e affascinante e assolutamente attuale. Si chiama Borderline, le frontiere della pace. L'autore è Valerio Vincenzo, che è qua con noi. Ciao Valerio. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Leggendo il tuo progetto mi sono venute in mente le parole di Luca Parmitano, che forse le aveva dette proprio qui in un'intervista all'astronauta italiano, che diceva: quando sei nello spazio e guardi l'Europa non vedi i confini, non vedi le frontiere, vedi un unico continente. Cosa stai cercando con la tua macchina fotografica? Sì, guarda, ho iniziato in realtà questo progetto nel 2007, non l'ho ancora finito. Oggi nel 2007 ho iniziato perché all'epoca in realtà non si parlava abbastanza, a mio avviso, di Schengen, degli accordi di Schengen e di questo enorme cambiamento storico, lento però inesorabile, che è iniziato in Europa dal 95. Quindi io ho voluto cercare di dare un'altra immagine alle frontiere, fotografando due paesi. In ogni mia fotografia si vedono due paesi che hanno aderito all'area Schengen e in questo modo mostrando un'immagine anche diversa della frontiera, perché nelle mie foto quello che vedi è molto diverso da quello che si associa all'immagine di frontiera, no? Si pensa a frontiera, muro, dogana, controlli, invece io mostro cose completamente diverse. Può essere un bosco senza niente, oppure tutto quello che resta è solo un paletto sulla sabbia. Quindi cerchi luoghi di passaggio, luoghi di passaggio informali o luoghi di passaggi codificati? Cioè cerchi proprio dove ci sono le strade che varcano un confine immaginario, o cerchi più questi aspetti? Cerchi il fiume, cerchi il prato, cerchi la montagna? Sì, Sì, cerco veramente un po' tutto. Io in pratica percorro a zigzag la frontiera. Mi sono occupato dal 2007 al 2013 dei 16.500 chilometri di frontiera tra i paesi che appartengono all'area Schengen. Sì. E dal 2014 ad oggi ho esteso il progetto anche ai paesi dell'Unione Europea che non sono ancora nell'area Schengen, come la Bulgaria, la Romania e la Croazia, quindi tenendo il progetto a quasi 20.000 chilometri. Quindi, come puoi immaginare, il progetto è così vasto, cerco un po' tutto, tranne tutto quello che può evocare un muro, in realtà. Qualsiasi altra immagine mi va bene, perché c'è una sovrarrappresentazione del muro nell'immaginario delle frontiere che non corrisponde alla realtà. E io cerco con questo lavoro di controbilanciare nel mio piccolo con queste immagini. Mm-hmm. Qual è stato l'ultimo confine, l'ultima frontiera che hai immortalato? Queste estate scorsa io realizzo questo progetto in generale d'estate, mm-hmm. poi rinizio ogni primavera e finisco a settembre. Quindi l'ultimo viaggio è stato nella frontiera della Croazia, in realtà qualche settimana prima che il percorso dei migranti deviasse giustamente verso queste frontiere. Quindi quello che ho visto io in realtà sono luoghi molto pacifici dove in realtà nonostante questi paesi non siano ancora nell'Unione Europea i controlli sono veramente blandi ed è stata un'esperienza, come tutti gli altri viaggi che ho fatto, un'esperienza indimenticabile che mi ha fatto capire molte cose. La grossa differenza che ho visto è comunque che quando lavoravo sull'area Schengen, io ho calcolato che ho attraversato la frontiera quasi 1000 volte senza mai essere controllato. Soltanto una volta alla frontiera tra la Repubblica Ceca e l'Austria un poliziotto mi chiedeva cosa facevo e io gli ho mostrato le foto sull'iPad, mm-hmm. e questo è bastato, non dovevo neanche mostrare la carta d'identità. Invece nel 2014, quando ho lavorato sulla frontiera della Bulgaria, per esempio, ho rischiato di essere arrestato solo per il fatto che fotografavo la frontiera. In Bulgaria ancora oggi è vietato fotografare la frontiera. Quindi questo mi ha fatto tornare indietro a un passato che pensavo scordato, no? Nonostante la Bulgaria debba integrare un giorno l'area Schengen, comunque non bisogna scordarsi che veniamo fuori anche noi, no? con la nostra cortina di ferro, da un passato fatto di divieti in realtà. E quindi mi ha dato un po' la dimensione, no, di queste differenze che ci sono ancora da colmare in Europa e poi comunque altrove nel mondo. Hai già programmato il prossimo viaggio? Sì, quest'estate mi occuperò di tutte una serie di buchi che non ho realizzato dal 2007, tipo il nord della frontiera tra la Francia e la Spagna, il sud della Scandinavia. E magari ritornare alla frontiera della Bulgaria con delle autorizzazioni, perché non mi è stato facile lavorare in quel okay. momento. Ma quante foto hai scattato? Le hai contate? No, non le ho contate, ma in realtà non scatto molto. Per darti un'idea, da un viaggio di una settimana posso tornare con 2 o 3 foto che scelgo, no? Poi magari ne scatto di più. Mm-hmm. Però l'importante è che poi queste foto siano rappresentative, no? E che siano sorprendenti prima di tutto per me e poi sicuramente per il pubblico. Abbiamo un minuto, ce le puoi far vedere via radio un paio di queste foto? Ci puoi raccontare un paio di immagini che ti porti con te nella memoria dai tuoi viaggi? Sì, una delle prime che mi ha fatto capire che potevo fare qualcosa su questo progetto è per esempio la frontiera fra la Francia e la Germania, dove si vede un personaggio che guarda il bosco da una specie di promontorio e la frontiera tra la Francia e Germania è una delle più combattute, no, della storia dell'Europa, dove sono state viste le guerre più tragiche e ci sono stati milioni di morti per proteggerle. Oggi è soltanto un bosco dove puoi circolare liberamente. E questo è proprio questo cambiamento meraviglioso, no, di cui ho voluto testimoniare. Un'altra magari è la frontiera tra l'Italia e la Svizzera, siamo vicini a Zermatt, a 4.000 metri, e si vede soltanto la neve, dei paletti sulla neve e una nuvola. E i paletti sono fragili comunque, si possono scavalcare come niente, in realtà sono lì soltanto per impedire agli sciatori di cadere nel burrone, no, dal lato italiano, quindi non sono lì per motivi di frontiera. Mi piace anche un po' giocare, no, con queste questi tipi di immagini. ValerioVincenzo.com, questo è il sito di Valerio per conoscere anche meglio il progetto Borderline, le frontiere della pace. Hai ricevuto diversi premi anche per questo bel lavoro, appunto urgente, attuale e non ancora finito, perché come ci ha raccontato ogni estate parti per raccontare nuovi varchi. Grazie davvero Valerio, complimenti. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. E chiudiamo qui questa puntata dell'Altra Europa, radio24.it, il nostro sito, da lì potete riscaricare il podcast, l'Altra Europa @radio24.it, invece se volete contattare la nostra redazione o ancora i social, @ Federico Taddia, Facebook e Twitter. Un grazie a Valeria Bernardi, oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattoni in assistenza e Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Questa è la squadra dell'Altra Europa, l'appuntamento come sempre è a sabato prossimo. Ancora grazie da Federico Taddia.